Sono le 13. GR24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large. Un italiano tra i 100 morti in India, un albergo ancora nelle mani dei terroristi e tra gli ostaggi ancora 7 nostri connazionali. Condanna unanime dal mondo, sui siti di Al-Qaeda si festeggia, Napolitano, la politica fermi la violenza. E dal capo dello Stato un altro monito contro la crisi, troppa miopia delle classi dirigenti e delle leadership politiche nazionali. Oggi in Italia il vertice di maggioranza per il sostegno all'economia. Emergenza credito, denunciano intanto gli artigiani, ridotti del 40% i finanziamenti alle piccole imprese. E a trascinare l'economia sono invece le città, producono oltre un quinto del PIL. Roma e Milano da sole concentrano il 12,5% della ricchezza nazionale. A restare i piedi invece è Messina, autobus fermi perché non ci sono più soldi. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Anna Migliorati. Le ultime notizie che arrivano dall'India parlano di 40 italiani salvi nelle sedi del consolato di Mumbai. La polizia indiana, lo ricordiamo con un blitz, ha ripreso il controllo di uno degli alberghi, ma un secondo è ancora nelle mani dei terroristi. Le brutte notizie sono invece di una vittima italiana, l'avete sentito nei nostri titoli, un secondo italiano manca all'appello e altri ancora sono in ostaggio. Ma cominciamo con il ricostruire quanto accaduto fino ad ora, facciamo il punto, poi sentiremo le ultime notizie da Cristina Carpinelli. Il terrore è arrivato dal mare, a bordo di un banale peschereccio. Da lì i 12 terroristi del nucleo base sarebbero passati su un gommone con cui poi avrebbero raggiunto la città, disperdendosi per compiere la loro missione. Alle 21.15, le 5:15 di ieri pomeriggio in Italia, il primo attacco a un caffè. In 5 arrivano e aprono il fuoco. Pochi minuti dopo, due uomini in scooter lanciano una granata contro una pompa di benzina vicino alla sede di una organizzazione religiosa ebraica. Entrano nell'edificio e uccidono due persone. Intanto, nella principale stazione ferroviaria della città, altri terroristi lanciano granate e sparano sulla folla. Al lussuoso hotel Taj Mahal, il comando invece entra silenziosamente da un ingresso posteriore. Poi semina morte con altri spari, altre granate e le fiamme cominciano a divorare l'albergo. Quindi tocca all'hotel Trident, all'Oberoi, a due altre stazioni, a un ospedale, un cinema, ad altri locali del lungomare. I bilanci parlano subito di decine di morti e di ancor più feriti. Tre colpi di pistola uccidono anche il capo dell'antiterrorismo locale, Emant Karkare. Molte vittime non sono indiane, perché tutti gli obiettivi sono frequentati dai numerosi stranieri in città. È una scelta precisa questa. Diversi testimoni diranno che negli hotel i terroristi andavano a caccia di cittadini stranieri, in particolare americani e britannici, per trattenerli come ostaggi. Ma trattengono anche una decina di italiani. Il nostro consolato generale sta facendo affluire tutti i dati. Alcuni dei terroristi parlano con l'emittente India TV e si definiscono Dakhan Mujahideen, un gruppo estremista islamico finora quasi sconosciuto, che chiede la liberazione dei loro fratelli in carcere. Il governo centrale, a Nuova Delhi, intanto, decide l'invio di 5 colonne dell'esercito con 200 uomini dei comando speciali. Partono così i blitz che liberano gli ostaggi del Taj Mahal e del Trident. E intanto si scopre che una delle oltre 100 vittime è un italiano, Antonio De Lorenzo. È purtroppo confermata la notizia della morte di un connazionale. All'hotel Oberoi invece le cose vanno a rilento. Il blitz c'è stato, ma l'esito è sconosciuto. Tra gli ostaggi ci sono un'italiana e la figlia di 6 mesi. Il marito della donna è lo chef dell'hotel. Un'ora fa il primo ministro indiano Singh ha parlato alla nazione, invocando pace e armonia. I appeal to the people to maintain peace and harmony. Laura Bettini, GR24, Il Sole 24 Ore. Fin qui dunque quello che è accaduto, come ce l'ha raccontato Laura Bettini. Adesso andiamo alla situazione attuale. Cristina Carpinelli. Sì, poco fa il primo ministro indiano che abbiamo sentito qualche istante fa, Mohammad Singh, ha detto anche che gli attacchi terroristici hanno collegamenti esterni. Negli attentati, lo ripetiamo, sono morte oltre 100 persone e si tratta, ha detto il primo ministro indiano, di attacchi ben organizzati. Dunque, a 18 ore dagli attentati si comincia a fare il punto della situazione, ma come avete sentito anche dalla scheda, si deve fronteggiare la crisi degli ostaggi che ancora adesso si trovano in mano dei terroristi. La polizia indiana sta tentando di liberare in questo momento gli ostaggi dell'hotel Oberoi e la vicenda va avanti da più di 10 ore. Ogni volta viene respinta, questo quanto ci ha raccontato il console italiano Ruge, che si trova appunto a Mumbai. All'interno dell'hotel, come avete sentito, ci sono 200 persone occidentali, tra loro 7 italiani e una donna con una bambina, mentre sono al sicuro gli altri 40 italiani scampati agli attacchi di ieri e che sono riusciti a raggiungere il consolato, come ci hanno confermato i nostri microfoni, ci ha confermato una funzionaria a Mumbai. Sentiamo. Abbiamo un gruppo di italiani che sono ospitati in questo momento a casa del console generale, nella sua residenza. Stiamo aiutando loro di partire. È possibile sapere qual è la situazione, se stanno bene, come stanno, quando... No, stanno bene, naturalmente sono senza documenti, senza niente, ma il consolato li sta aiutando a partire. Abbiamo il personale lì all'immigration per farli partire, loro stanno bene, stanno riposando a casa messa a disposizione dal console generale. Entro quando dovrebbero partire? Stiamo cercando di farli partire oggi. Ecco, queste sono le ultime notizie e un'ultimissima è che mentre è in corso l'operazione, appunto il blitz all'Oberoi, intanto all'hotel Taj Mahal si sono sentiti diversi colpi d'arma da fuoco. Ovviamente di tutto questo vi riferiremo. La polizia locale indica all'interno dell'hotel tra i 5 e 7 terroristi. Per ora è tutto, vi ridò la linea. E grazie a Cristina Carpinelli. Tra le dure condanne all'attentato in India ci sono anche le parole del capo dello Stato Giorgio Napolitano, che da Gerusalemme, dove è in visita, ha definito oggi gli attentati come imprese criminali efferate, atti di violenza indiscriminata volte a colpire rappresentanti occidentali. Ma poi proseguito, occorre rispondere anche con iniziative politiche efficaci capaci di ridurre la presa di queste azioni di violenza. Continueremo ad aggiornarvi naturalmente nel corso di Extra Large su quello che avverrà in India. Adesso ci spostiamo. Siamo in un'altra zona dell'Asia, in Thailandia, dove l'aeroporto internazionale di Bangkok, bloccato come sapete dai manifestanti antigovernativi, resterà chiuso almeno fino a sabato pomeriggio alle 18 ore locali, saranno il mezzogiorno in Italia, mentre l'esercito thailandese ha smentito le voci che si erano diffuse sulla imminenza di un colpo di stato militare. Dicevamo delle parole di Napolitano, dal capo dello Stato è arrivato anche un altro appello di fronte alla crisi finanziaria ed altri processi che su scala mondiale tengono a sfuggire ad ogni controllo, ha detto ancora il Presidente della Repubblica. Si vede miopia e debolezza in troppi casi da parte delle classi dirigenti e delle leadership politiche nazionali. Così nella Lectio Magistralis all'Università Ebraica di Gerusalemme, dove Napolitano, dicevamo, è in visita, bisogna invece, aggiunto, mettere l'accento contro le chiusure e i protezionismi nazionali. Oggi, ricordiamoci, sarà il vertice di maggioranza sulla crisi in Italia, ma di questo parleremo più avanti. E adesso vogliamo parlare invece che di crisi dello stato dell'economia italiana, in particolare dell'economia delle città italiane. Raccontarlo oggi un rapporto stilato dall'Associazione Comuni Italiani, presentato proprio questa mattina. Marco Lignana. Sì, buongiorno. Nelle 11 città metropolitane italiane si realizza un quinto dell'intero PIL nazionale. Lo hanno detto insieme il sindaco di Firenze, presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni, Leonardo Domenici, e il primo cittadino di Milano, Letizia Morazzi. I dati sono tratti dal primo rapporto Cittalia, che ha analizzato gli 11 maggiori capoluoghi. Secondo lo studio, il 70% degli investimenti si realizza dalle e nelle città, che dal 1998 al 2005 sono cresciute del 4,5%, un punto in più rispetto alla crescita nazionale. Anche la popolazione è destinata ad aumentare, pur considerando lo storico movimento dal sud al nord. Entro il 2020 i cittadini delle 11 metropoli dovrebbero crescere del 3,2%. Non ci sono però solo buone notizie. Infrastrutture e trasporti sono decisamente da migliorare. Basti notare che Milano, la prima realtà italiana per dotazione di metropolitane, ha 74 chilometri di binari sotterranei, Londra invece ne ha 408 e Parigi oltre 200. Domenici e Letizia Morazzi hanno quindi chiesto al governo una maggiore attenzione. A proposito della crisi, Domenici ha detto che le autonomie locali non vanno considerate delle palle al piede, ma delle risorse utili per la ripresa. Per Letizia Morazzi, invece, più che un astratto e omogeneo sistema paese, bisogna guardare alle specificità territoriali. Da qui è tutto e vi restituisco la linea. E adesso vogliamo parlare anche dei pendolari, perché Trenitalia ha accettato la richiesta della regione Regione Liguria di prolungare di un mese gli abbonamenti annuali e mensili dei pendolari liguri come risarcimento per i disservizi subiti nel 2007. La notizia verrà ufficializzata oggi e nei giorni scorsi era stato motivo di scontro tra la Liguria e proprio i vertici delle ferrovie. Continuano però le proteste di numerosi comitati di pendolari. L'arrivo dell'alta velocità sulla tratta Milano-Roma, ricordiamo il 14 dicembre prossimo, sembra infatti creare qualche disagio sulle tratte regionali. Il problema principale è la mancanza di treni, come ha confermato questa mattina a viva voce Vincenzo Soprano, amministratore delegato di Trenitalia. Sentiamolo. Il problema grave quando si va a progettare un orario è che abbiamo, e questo dobbiamo ammetterlo con grande, direi, trasparenza, nelle ore di punta ci sono troppi pochi treni. Troppi pochi treni significa che il treno, quando sta a 20-30 km da una grande area metropolitana, è già pieno come un uovo, la gente è scatolata, come questo è una cosa che ci fa male ogni giorno parlarne, come sardine, ma non c'è possibilità di dare ulteriore offerta proprio per il tema che dicevamo prima, cioè difficoltà in un momento molto complicato, sappiamo sì, tutti la crisi che c'è, a reperire risorse per il trasporto e per aumentare la capacità di trasporto, e quindi è quello che in gergo tecnico si chiama l'incarrozzamento. Il treno si ferma, da fare una prima di 3 minuti, la fa di 7-8. E in Campania via libera ai militari anticamorra. Il via libera è arrivato oggi alla Camera con i voti favorevoli, sono stati 281, quelli contrari 204. Negli stessi minuti a Napoli, nel quartiere di Secondigliano, un uomo di 37 anni, Antonio Vizzacaro, sorvegliato speciale, è stato ucciso in un agguato e ritenuto un elemento di spicco della criminalità organizzata. Parlavamo dello stato delle città italiane, se c'è chi trascina l'economia, a Messina si resta invece a piedi, sentite. Dopo 10 giorni di sciopero e di blocco del trasporto pubblico locale, un comunicato del Comune di Messina in data di oggi assicura che ai dipendenti della locale azienda trasporti, l'ATM, sarà pagato lo stipendio di settembre tra lunedì e martedì, quindi entro la fine della prossima settimana sarà versato il 95% degli emolumenti di ottobre. L'ATM messinese è un'azienda al tracollo, non è una novità, ma la situazione sembra arrivata a un punto di non ritorno. Secondo il segretario della FIL CGL Pino Foti, l'annuncio del Comune non cambia le cose, perché i 2,5 milioni di euro sono solo un acconto e la situazione di esasperazione dei 680 dipendenti è fuori del controllo dei sindacati. Ormai ci sono atti di esasperazione, quindi se non si dà certezza, e noi riteniamo che la certezza possa essere costituita soltanto dal pagamento delle spettanze, diventa difficile cercare di far ragionare la gente. Foti spiega che l'azienda ha 20 milioni di debiti, le casse vuote, non ha immobili da dare in garanzia e intanto la regione non paga i 3 milioni per il rinnovo dei contratti già trasferiti dallo Stato. I bus in grado di circolare, la gran parte vecchissimi, sono 40, quando ne servirebbero 120. Anche il blocco dei pezzi di ricambio si registra ormai da molto tempo, nel senso che l'ATM non ha pagato i fornitori e l'ATM è rimasta senza pezzi di ricambio, si è arrivato a smontare pezzi di autobus fermi per farne partire qualcuno. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. 13 e 18 minuti, le notizie di oggi. Un italiano tra i 100 morti in India, un albergo è ancora nelle mani dei terroristi e tra gli ostaggi 7 nostri connazionali. La condanna unanime del mondo intero, ma sui siti di Al-Qaeda si festeggia. Emergenza credito, denunciano gli artigiani, ridotti del 40% i finanziamenti alle piccole imprese. A trascinare l'economia sono invece le città, producono oltre un quinto del PIL. Le città trascinano l'economia, un quarto del PIL italiano nelle città metropolitane, a guidare la classifica le città più ricche, Milano e Roma. Incidenti sul lavoro, un operaio è morto folgorato alla stazione di Napoli, 2 feriti nel crollo della facciata di una palazzina in ristrutturazione nel Mantovano. Dunque riprendiamo a parlare degli attentati che sono avvenuti in India, cerchiamo di capire che cosa è successo, come interpretare questi attentati. Gigi Donnelly ne ha parlato, ha intervistato il giornalista, scrittore e intellettuale pakistano Ahmed Rashid. Nessun dubbio, per Ahmed Rashid la notte del terrore di Mumbai, rivendicata dagli sconosciuti mujahideen del Deccan, porta la firma di Al-Qaeda e segna il ritorno del terrore sul piano globale. Attacchi coordinati, ben pianificati per provocare il massimo del terrore e la massima risonanza mediatica. Ecco dunque la scelta degli obiettivi, grandi alberghi, il turismo di lusso, la caccia agli occidentali. Obiettivi internazionali e regionali insieme, perché si tratta di affossare il turismo indiano prima delle vacanze di Natale e minare il fragile dialogo tra India e Pakistan. E infine un avvertimento, c'è da attendersi una recrudescenza del terrorismo di Al-Qaeda in tutto il mondo. Colpiscono dove è possibile e mandano un segnale forte a Barack Obama, che si insedia alla Casa Bianca e viene subito chiamato ad affrontare il nodo del terrorismo estremista. Un approccio regionale che riparte proprio dall'Afghanistan, dove qualche giorno fa il presidente Karzai ha chiesto un calendario di ritiro per le truppe occidentali. Karzai in realtà lavora su due fronti. Chiede un calendario di ritiro per ottenere più soldati. È senz'altro convinto della necessità di aumentare la presenza delle truppe internazionali per assicurare il controllo del territorio afghano, contrastare il dilagare delle forze talebane e formare nel frattempo il nuovo esercito e le strutture di polizia del nuovo Afghanistan. Ma d'altra parte ha assolutamente bisogno di una strategia d'uscita da poter spendere sul piano internazionale e soprattutto su quello della sua credibilità interna. Non dobbiamo dimenticare che nel prossimo mese di ottobre ci saranno le elezioni generali afghane e lui ha bisogno di poter rassicurare 32 milioni di afghani del fatto che questo ciclo, che da 30 anni vede truppe straniere nel paese, è vicino alla fine. La cronaca sembrerebbe indicare che qualsiasi ipotesi di dialogo con i talebani è da escludere. Perché allora Karzai ne parla? Karzai non pensa di avere un dialogo con il Mullah Omar e con i vertici dei gruppi che sostengono i movimenti terroristici. Piuttosto pensa di poter incidere nella truppa afghana, che costituisce il grosso dell'esercito talebano. Pensa di poter far leva sugli elementi del nazionalismo e insinuare un cuneo nella struttura, in modo da indebolirne e isolarne gli elementi estremisti. La strategia occidentale negli ultimi 8 anni è apparsa incerta e in ultima analisi inefficace. Sì, profondamente sbagliata. Gli Stati Uniti avevano promesso la ricostruzione del paese e si sono poi impegnati in Iraq. Hanno attaccato in Afghanistan senza poi assicurare tutto il sostegno necessario. Ora Barack Obama ha la possibilità di cambiare le cose, di mandare un nuovo messaggio ai popoli dell'Asia centrale, ma se lo vuole fare sarà costoso perché servono più soldi, più impegno, più aiuto umanitario, un programma completo e complesso che cambi anche la pessima opinione che i popoli dell'Asia centrale si sono fatti della politica estera americana. More money, more development, more aid and more. Il titolo del suo libro, Caos Asia, oggi appare profetico alla luce degli eventi. D'altra parte, non sembra lasciare molte speranze per il futuro della regione. No, in realtà speranze ce ne sono, a cominciare dal mio Pakistan, che svolge un ruolo chiave nella regione. Per quanto complessa la situazione sia, e appaia oggi, abbiamo comunque un governo civile, guidato dal vedovo di Benazir Bhutto, un governo democraticamente eletto che sta cercando di rafforzarsi nonostante gli attacchi del terrorismo e le difficoltà economiche. In Afghanistan ci saranno le elezioni in ottobre. Insomma, le possibilità di rafforzare il dialogo tra le forze civili della regione non è affatto da escludere. Va coltivata e sostenuta da tutti, ma di certo i prossimi mesi saranno determinanti. Grazie allora ad Ahmed Rashid, lo ricordo il suo Caos Asia edito da Feltrinelli, appena arrivato in libreria, un libro che ci aiuta a capire la complessità dell'Asia centrale e del subcontinente, andando oltre la cronaca e al sangue generato dagli attacchi del terrorismo. L'intervista era di Gigi Donelli. Torniamo però all'attualità degli attacchi in India. Gli ultimi aggiornamenti ci dicono che la Marina indiana avrebbe intercettato la nave su cui sarebbero sbarcati a Mumbai i terroristi che hanno assaltato la città. Un gruppo, ricordiamo, di 10-12 persone è arrivato al largo della città a bordo di questa imbarcazione per poi disperdersi con gommoni e far scattare l'assalto. Secondo un'emittente indiana, alcune persone sarebbero inoltre già state fatte uscire dall'hotel Oberoi. Nell'albergo, ricordiamo, ci sono ancora circa 200 persone, di cui 7 italiani. Continueremo naturalmente ad aggiornarvi. E adesso torniamo invece in Italia per una notizia che ci porta in Sicilia. Sull'isola sbarca la Sharp per produrre pannelli solari. Sentiamo. Nel settore dell'energia solare sarà costruito in Sicilia un maxi impianto per la produzione di pannelli solari con l'avanzata tecnologia della società giapponese Sharp, con un investimento di oltre 600 milioni di euro. Il mese prossimo sarà costituita una joint venture tra l'Enel, la ST Microelectronics e la Sharp. L'inizio della produzione è previsto intorno alla metà del 2010. I pannelli prodotti serviranno i mercati europei, soprattutto quelli dell'area mediterranea. La joint venture rientra nell'accordo strategico tra Enel e Sharp firmato alcuni mesi fa e si affiancherà a un'altra società congiunta tra le due società che produrrà direttamente energia solare, ossia installerà in vari punti d'Italia, specialmente nelle regioni del sud, centrali solari. A Tokyo il vice direttore generale della Sharp, Toshishige Hamano, ha sottolineato che l'intesa con Enel rappresenta la prima incursione del gruppo nipponico nella produzione diretta di energia solare. La Sharp fornirà la sua tecnologia avanzata per celle solari Thin Film, la stessa che utilizzerà nel mega impianto che sta costruendo in Giappone a Sakai, vicino a Osaka. Stefano Carrer, GR24 Sole 24 Ore, Tokyo. E dalla Sicilia alla Puglia, dove i 4 milioni di utenti dell'acquedotto pugliese devono sperare che non fallisca l'americana General Motors, altrimenti sarebbero davvero guai, sentite. L'industria automobilistica americana e le acque pugliesi. Non potrebbero esserci due settori più diversi e lontani, industrialmente e geograficamente, eppure i loro destini sono legati a doppia mandata, perché se dovesse saltare la General Motors, come oggi in America molti temono, a farne le conseguenze sarebbero i bilanci di Acquedotto Pugliese SPA. Se accadesse oggi il buco sarebbe di 30 o 40 milioni, ma se accadesse tra 8 o 9 anni sarebbe il doppio. Tutto nasce da un'emissione obbligazionaria da 250 milioni gestita dall'istituto americano Mary Lynch nel 2004. Dall'anno successivo, Acquedotto sa che una componente di quel pacchetto rischia di generare forti rischi e quasi nessun guadagno, ma per non dover reperire 4 o 5 milioni di euro, Acquedotto ha deciso di tenersi quel rischio in pancia, sperando che GM non fallisca o che il tribunale di Bari gli dia ragione nella causa che nel marzo scorso ha deciso di intentare a Mary Lynch. Claudio Gatti, GR24, Il Sole 24 Ore, New York. Adesso parliamo di musica. Quasi due mesi di festeggiamenti. Li merita un compleanno molto speciale, quello della casa discografica che ha contribuito a cambiare il suono della musica leggera. Marvin Gaye, Stevie Wonder, Smokey Robinson, Tammy Terrell, The Four Tops, Gladys Knight, Diana Ross, Jackson 5. Sono la storia della musica nera americana del XX secolo. Il loro era il Motown Sound, il suono cioè della casa discografica, la Motown o Tamla Motown, che li aveva scoperti. Un soul e un rhythm and blues dalla particolare struttura melodica, uno stile vocale particolare, arrangiamenti tipici, il tutto creato negli studi di Detroit prima e di Los Angeles poi, sotto la supervisione del leggendario fondatore Berry Gordy. I feel numb. I never realized that by making other people shine. I festeggiamenti mi lasciano intontito, dice timido Gordy, sono sempre stato dietro le quinte e non mi aspettavo che facendo brillare gli altri avrei finito per brillare anch'io. Oggi, 79esimo compleanno del fondatore, partono in tutto il mondo i festeggiamenti del cinquantennale, che cadrà il 12 gennaio 2009. Un film documentario, una commedia musicale, nuove raccolte delle 180 canzoni arrivate al primo posto in classifica. Oggi, la Motown, seguendo la sorte di gran parte delle etichette storiche, fa parte di un colosso, la Universal. Ma il Motown Sound è ancora un punto di riferimento, anche per gli artisti più giovani. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. La vignetta sul Corriere della Sera in prima pagina, Giannelli, rilancio dei consumi è il titolo, Babbo Natale va a far la spesa al supermercato con la social card. 13:34 minuti, le notizie di oggi extra large. Un italiano tra i 100 morti in India, un albergo è ancora nelle mani dei terroristi e tra gli ostaggi 7 nostri connazionali. Condanna unanime del mondo sui siti di Al-Qaeda, si festeggia, Frattini dietro l'attentato all'organizzazione di Bin Laden. Ancora bloccato l'aeroporto di Bangkok, paese isolato almeno fino a sabato, ma i soldati smentiscono che si prepari un golpe militare. In Italia emergenza credito, dicono gli artigiani, ridotti del 40% i finanziamenti alle piccole imprese. E a trascinare l'economia sono invece le città italiane, producono oltre un quinto del prodotto interno lordo, mentre Messina resta a piedi, non ci sono più soldi per pagare gli autobus. Incidenti sul lavoro, un operaio morto folgorato alla stazione di Napoli, due operai feriti nel crollo della facciata di una palazzina in ristrutturazione nel Mantovano. Ancora piccoli segnali di recessione per quanto riguarda l'Italia. A settembre l'occupazione nelle grandi imprese, per intenderci quelle che hanno più di 500 addetti, ha registrato un calo dello 0,2%, calo che sarebbe ancora maggiore, pari allo 0,4%, se non fosse per l'intervento della cassa integrazione. E la crisi la guardiamo ora attraverso le piccole e medie imprese. In corso c'è infatti l'Assemblea Nazionale della CE. E tema dominante è l'accesso al credito. Paola Nania, buongiorno. Buongiorno a voi. Il credit crunch, vale a dire la stretta del credito da parte delle banche, è una realtà, non solo una paura per gli artigiani e le piccole e medie imprese. La conferma, lo dicevate, arriva dal CNA, vale a dire dall'associazione che rappresenta piccole e medie imprese e artigiani, e soprattutto arriva dall'indagine del CNA fatta su tutto il territorio nazionale con dati recentissimi che sono aggiornati al 15 novembre. Per il presidente del CNA, Ivan Malavasi, è una situazione preoccupante. Sentiamolo. Peggiorano tutti i dati, peggiorano il rapporto domanda e offerta, quindi anche molto meno richieste di credito. Quelle che ci sono da parte del sistema creditizio vengono richieste garanzie eccessive, spesso diminuiscono le quantità, i volumi, si abbassano le disponibilità sui fidi. Insomma, noi abbiamo calcolato che la media tra richiesta e offerta e qualità dell'offerta c'è un peggioramento del 40%. All'Assemblea Nazionale del CNA qui a Roma, ancora in corso, è presente anche l'amministratore delegato di Unicredit, Alessandro Profumo, che si è difeso così, sentiamolo. Le probabilità di perdere dei quattrini quando eroghiamo credito sono cresciute, e siccome noi non gestiamo i nostri soldi, gestiamo i soldi dei nostri clienti, dobbiamo prestare grande attenzione al fatto che quando imprestiamo dei quattrini, questi quattrini ci vengano rimborsati. Per cui non possiamo fare discorsi, fatemi dire, populistici o semplicistici. Sappiamo che la materia prima è più cara e sappiamo che le probabilità di perdere nel momento in cui eroghiamo del credito sono più alte, quindi dobbiamo tutelarci da questi problemi e rischi. E se non avete domande, da Roma è tutto. Grazie Paola Nania. E nel frattempo, proprio per mettere una mano anche su questi temi, il governo sta continuando a lavorare, sta preparando il piano anticrisi per il nostro paese. Il ministro dell'economia Giulio Tremonti non sembra però intenzionato a concedere deroghe finanziando aumenti significativi di spesa. Oggi nuovo vertice con anche il ministro Tremonti, naturalmente. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Meno di 24 ore dunque al Consiglio dei Ministri, chiamato domani a varare un decreto contenente le misure anticrisi per famiglie ed imprese. Gli ultimi dettagli nel pomeriggio in un nuovo vertice di maggioranza. Il provvedimento dovrebbe avere un impatto di circa 4 miliardi di euro per il settore produttivo. Non ci dovrebbero essere grandi novità rispetto a quanto presentato dal governo alle parti sociali. Taglio dell'acconto IRES di fine mese, conferma per la detassazione degli straordinari e per i premi di produttività, sconto di parte dell'IRAP, blocco dei pagamenti della pubblica amministrazione, IVA di cassa, creazione di un fondo nazionale per aiutare i confidi. Una particolare attenzione sarà dedicata alle piccole e medie imprese. La conferma dalle parole del ministro del Welfare Sacconi. Sentiamo. Ci sarà una forte considerazione per le piccole imprese che sono particolarmente vulnerabili, ovviamente, in una crisi come quella che ci probabilmente ci aspetta, ma ad esse abbiamo soprattutto pensato sia in termini di garanzia della liquidità da parte del sistema bancario, sia in termini di provvedimenti di natura fiscale che hanno lo scopo di sostenere le imprese in un momento in cui la redditività può ovviamente essere compromessa. Per le famiglie invece, oltre alle misure già previste, ci potrebbe essere novità dell'ultima ora, la detassazione delle tredicesime. Il decreto continua intanto a non piacere all'opposizione, che reputa le misure di scarso impatto economico. Sentiamo Bersani, Partito Democratico. Misurerò da questo, cioè se noi metteremo davanti a questa crisi meno soldi di quelli che abbiamo messo a luglio, per togliere l'ICI anche i benestanti, per favorire gli straordinari in epoca di cassa integrazione o per pagare il prezzo di Alitalia. Facciamo la somma di ste cose e poi vediamo se è il caso di metterci più soldi o meno. Domani, lo ricordiamo, alle 11 il Consiglio dei Ministri con le misure anticrisi, slitta invece la prossima settimana il CIPE per le grandi opere. È tutto. Grazie Vincenzo Miglietta e ovviamente domani seguiremo con attenzione il Consiglio dei Ministri. La cronaca intanto di oggi: un operaio di una ditta che effettua lavori per conto delle Ferrovie dello Stato è morto a Napoli questa mattina folgorato da una scarica elettrica mentre eseguiva lavori nella stazione centrale della città. L'uomo, 31 anni, stava facendo lavori di manutenzione, folgorato da una scarica elettrica mentre si trovava ad un'altezza di 4-5 metri. Due operai feriti gravemente anche nel Mantovano, a Castiglione delle Stiviere, dove è crollata la facciata di un palazzo in ristrutturazione. E gli attacchi terroristici in India, a Mumbai, dominano naturalmente anche la stampa internazionale. Le foto della stazione ferroviaria dove è avvenuto uno dei principali attentati sono su tutte le prime pagine. Allora concentriamoci sulla stampa araba. A questo infatti è dedicato oggi la nostra finestra sul mondo arabo. A causa dell'ora tarda degli attentati di Mumbai, la stampa araba fa appena in tempo a riportare le notizie delle agenzie internazionali. Nei titoli però l'accento è sugli ostaggi e le vittime occidentali, come fa Al-Quds Arabi, che titola «Occidentali nel mirino degli attentatori». A parte la scontata esultanza sui siti fondamentalisti vicini ad Al-Qaeda, la reazione degli utenti arabi dei siti web della TV satellitari è improntata sulla difensiva. «Non conosciamo la fede degli attentatori né i loro obiettivi», scrive uno. «Allora perché puntare subito il dito contro noi musulmani?» Per un telespettatore della TV all'Arabia, gli attentatori sono un residuato dell'odiosa fabbrica della morte afghana che non ha niente a che fare con il nostro Islam. No, replica un altro dal sito web di Al Jazeera, le stragi sono una reazione inevitabile al dispotismo criminale sistematico del governo indiano contro i musulmani di Kashmir. Adif Fatahali, GR24, Il Sole 24 Ore. E allora le ultime notizie dall'India. L'ultima battuta pochi istanti fa dalle agenzie, che potrebbe essere in qualche modo una novità, dice che un estremista islamico asserragliato in un centro di residenza ebraico a Mumbai avrebbe chiesto di stabilire un contatto con il governo e offerto la liberazione di alcuni ostaggi. Oltre 200, lo ricordiamo, le persone ancora in ostaggio, 7 di loro sono italiane. Dall'Italia il ministro degli esteri Frattini indica come responsabile degli attentati Al-Qaeda. Dall'India arriva invece una dichiarazione che è del gruppo estremista pakistano Laskar e Talba, che ha smentito qualsiasi implicazione nella serie di attentati delle ultime ore a Mumbai. Continueremo naturalmente ad aggiornarvi. E resta confusa anche la situazione nel Congo. Ieri la missione delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica ha accusato i ribelli di Laurent Kunda di avere violato la fragile tregua che è in vigore nella zona orientale del paese. Però le denunce dell'ONU riguardano anche l'esercito regolare e i suoi saccheggi nei confronti purtroppo della popolazione. Allora sentiamo un'altra tappa del diario di Giampaolo Musumeci. Macchia di leopardo, ecco l'unico modello teorico che permette in questo momento di leggere la situazione drammatica del nord del Kivu, qui in Congo. La gente qui fugge senza una direzione precisa. A seconda di dove si combatte, si spostano masse di disperati, con addosso solo il minimo indispensabile. Non c'è un asse nord, sud o est-ovest in questi spostamenti. Spesso la fuga è cieca e dipende esclusivamente dai combattimenti, che anche loro sono macchia di leopardo. A nord, sopra Rushuru, si combatte ancora. Si stanno scontrando i Mai Mai, le FDLR contro le SNDP di Laurent Kunda e quindi a nord, sopra Rushuru, si scappa ancora. Così a oggi sono 13.000 le persone che cercano di guadagnare la frontiera con l'Uganda, proprio lì a nord. L'arma più terribile ed efficace di questa guerra non convenzionale sono i déplacés, gli sfollati. Questi 10 anni di conflitto hanno creato 1 milione di persone in fuga che occupano e esauriscono un territorio, creando spesso il panico dove arrivano. Un esercito pronto suo malgrado a ingrossare le linee dell'una e dell'altra fazione. E quella che vi raccontiamo oggi è la storia di una piccola multinazionale del libro d'arte, la casa editrice Schirà, che festeggia i suoi primi 80 anni. Correva l'anno 1928 quando a Losanna un giovane svizzero che amava l'arte decise di fondare una piccola casa editrice e di darle il suo nome. Si chiamava Albert Schirà. Poi negli anni 30 l'apertura della sede francese a Parigi. Tra i suoi più assidui frequentatori Pablo Picasso e Henri Matisse, che realizzarono anche i primi due libri della giovane casa editrice, Le Metamorfosi di Ovidio con 30 acqueforti originali di Picasso e Le Poesie di Mallarmé, per le quali Matisse creò 29 incisioni. In quella stessa sede c'era anche la redazione della leggendaria rivista Minotaur, organo del movimento surrealista, dove scrivevano Breton e Deluard, mentre le copertine le disegnavano a turno Picasso, Dalí, Miró, Duchamp e Magritte. Schirà in quegli anni era davvero il crocevia della grande arte europea. Ora, a 80 anni esatti dalla sua nascita, la sede svizzera di Schirà, che già nel 48 era stata trasferita a Ginevra, è ancora lì, mentre il quartier generale si trova a Milano, a poca distanza dal Duomo. Pubblica ogni anno 300 novità in italiano, inglese e francese, in versione ridotta in tedesco e spagnolo, e oltre 300 cataloghi di mostre, e la qualità resta fin dall'inizio il carattere distintivo fondamentale di Schirà, come ci spiega anche il curatore del volume celebrativo per gli 80 anni della casa editrice, Andrea Kerbacher. Il pubblico riconosce molto bene la qualità, riconosce a Schirà quella che è sempre stata la sua stella polare. La qualità, per fortuna, diciamo, perché in un mondo che non sempre è così attento, nell'editoria d'arte è considerata la parte preponderante del discorso. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:48 minuti, 30 secondi, extra large le notizie di oggi. Un italiano tra i 100 morti in India, almeno 200 nelle mani dei terroristi, 7 sono nostri connazionali. Stallo nella situazione. Condanna unanime dal mondo, ma sui siti di Al-Qaeda si festeggia, dito puntato sull'organizzazione di Bin Laden. In Italia è emergenza credito, lo dicono gli artigiani, ridotti del 40% i finanziamenti alle piccole imprese. A trascinare l'economia sono invece le città, producono oltre un quinto del PIL. 7 comuni su 10 a rischio edilizia poco sicura in Italia, dice la Protezione Civile. E partiamo proprio da questo dato. Non solo scuole, infatti, ma anche abitazioni, fabbricati industriali non sono sicuri in Italia. A tentare di fare una mappa di questa situazione, Lega Ambiente e Protezione Civile, in un rapporto presentato quest'oggi. C'era Francesca Malaguzzi, buongiorno. Buongiorno. I comuni che hanno risposto all'indagine dichiarando di avere case costruite in zone a rischio di frane e alluvioni sono circa 1000. Già questi da soli sono un ottavo di quelli italiani, senza considerare che molti comuni non hanno risposto. Se si considera il campione dei 1200 rientrati nelle indagini, le percentuali sono molto più allarmanti. Le ha esposte al nostro microfono il presidente di Lega Ambienti, Vittorio Cogliati Dessa, quantificando così i centri con edifici a rischio. Sentiamo. Comuni con fabbricati sono il 70%, anche di più, del patrimonio dei comuni italiani. E il dato, se vuole, più allarmante è che c'è il 30% dei comuni che ha interi quartieri in aree a rischio. Stiamo parlando di decine di migliaia di persone. Importante riguarda invece le attività della Protezione Civile locale. Più dell'80% delle amministrazioni comunali che hanno risposto ha un piano d'emergenza. A presentare il rapporto c'era anche il capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso. Sentiamo il suo monito. Nelle priorità bisogna capire che la saga della salsiccia è meno importante della messa in sicurezza del controsoffitto di una scuola piuttosto che dell'argine di un fiume. Mi pare di aver sostenuto con grande forza l'esigenza di considerare la sicurezza nelle scuole e quindi anche la sicurezza del nostro territorio la più importante opera pubblica che ci possiamo inventare. E Legambiente ricorda che gli interventi di emergenza non bastano, bisogna lavorare e investire soprattutto in prevenzione. È tutto, a voi la linea. Grazie. Solo 2 giorni fa, ricordiamo, l'allarme del capo della Protezione Civile Bertolaso riguardava le scuole a rischio, e allora oggi con noi cominciamo un viaggio negli edifici scolastici più insicuri secondo la graduatoria di cittadinanza attiva, e cominciamo raccontandovi La Maglia Nera, una scuola per l'infanzia di Lamezia Terme. Impossibile cercare di contattarla senza telefono, ma soprattutto senza il certificato di agibilità. È nel cuore di Lamezia Terme, la scuola più pericolosa d'Italia, secondo la graduatoria di cittadinanza attiva. Uno stanzone per due classi, 17 iscritti, un paio di maestre e un solo piccolo bagno. Benvenuti alla scuola per l'infanzia Giacomo Leopardi. Da qualche giorno in realtà le porte sono chiuse, gli alunni infatti sono stati trasferiti causa lavori radicali deliberati il 21 novembre, come conferma l'assessore alla scuola Milena Liotta. Abbiamo previsto il trasferimento dei bambini presso un'altra scuola per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, con un impegno di spesa complessivo di 90.000 euro per la messa in sicurezza di questi locali. Se per altre scuole, come in Via delle Rose, di recente sono stati sistemati gli impianti elettrici e nel complesso Bucolia invece si cerca ora di risolvere il problema infiltrazioni evidente nelle macchie di umido e nella puzza di muffa, la Leopardi era sempre rimasta fuori da ogni ristrutturazione. Ma da quanto tempo non si programmavano lavori complessivi negli istituti scolastici? Non mi faccia dire, ma parecchi, cioè si sono fatti degli interventi negli anni, ma sempre degli interventi tampone. Ora abbiamo deciso di fare interventi risolutivi. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore. E adesso andiamo in India per cercare di capire che cosa sta accadendo esattamente con Marco Masciaga. Si parla di un blitz per sgominare gli ultimi terroristi asserragliati. Marco? Ma la situazione è ancora molto confusa in questo momento in realtà. Io sono stato fuori da entrambi gli alberghi coinvolti dalle operazioni, e per esempio un'ora fa al Taj, che è quello dove la situazione è sicuramente più tranquilla, si sentivano delle esplosioni provenire dall'interno. Lì teoricamente non ci dovrebbero essere più ostaggi e quindi si tratta semplicemente di una battaglia tra terroristi e reparti speciali della polizia e dell'esercito indiano. Per quanto riguarda l'altro albergo, l'Oberoi, la situazione è molto più confusa, perché all'interno della struttura ci potrebbero essere anche 100 persone, forse 200, una quarantina di ostaggi e poi un numero imprecisato di persone barricate dentro le proprie stanze, e in quel caso la polizia tiene a debita distanza cronisti e curiosi, quindi è molto difficile riuscire a capire. Dall'interno dell'albergo si sentono comunque raffiche di mitra, colpi di pistola, esplosioni, quindi qualcosa sicuramente sta succedendo, ma si tratta di strutture molto grandi e immagino che la polizia si stia muovendo stanza per stanza. Ci confermi per quanto riguarda gli italiani una vittima, ma ancora altri connazionali in ostaggio? Sulla questione degli italiani è difficile sapere, so anch'io di una vittima, so di alcune persone all'interno dell'Oberoi, forse 7 persone di nazionalità italiana, ma in questi casi è molto difficile stabilire se si tratta di persone che sono in mano ai terroristi oppure di persone che sono praticamente intrappolate nell'albergo, sono magari barricate nelle proprie stanze e non sono ancora state raggiunte dalle parti speciali e liberate. Grazie Marco Masciaga, ricordiamo a Mumbai, torneremo a collegarci con te anche nelle prossime edizioni di GR24 per continuare a seguire la situazione. Anche un italiano tra i 100 morti negli attentati in India, 200 ostaggi ancora nelle mani dei terroristi, 7 sono nostri connazionali, l'esercito indiano si prepara al blitz. Condanna unanime dal mondo, ma sui siti di Al-Qaeda si festeggia. Napolitano, la politica fermi la violenza. Il capo dello Stato lancia un altro monito contro la crisi, troppa miopia delle classi dirigenti e delle leadership politiche nazionali. Oggi in Italia il vertice di maggioranza per il sostegno all'economia. Emergenza credito, denunciano intanto gli artigiani, ridotti del 40% i finanziamenti alle piccole imprese. E a trascinare l'economia invece sono le città italiane, producono oltre un quinto del PIL. Roma e Milano da sole concentrano il 12,5% della ricchezza nazionale. Ma Messina resta invece a piedi, auto bus fermi perché non ci sono più soldi. GR Extra Large, Alessio Maurizio, Anna Migliorati in studio, è tutto per questa edizione. Il coordinamento era di Maria Piera Ceci, in regia Fabio Cantadori. Io vi ricordo tutti gli aggiornamenti su quel che sta avvenendo in India già dalla prossima edizione di GR24 alle 15. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 13. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.